Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, sono queste settimane di grande tensione politica non soltanto in Italia ma un po' in tutta Europa, che sarà fra l'altro dominata quest'anno da importanti elezioni in paesi molto significativi come la Germania, la Francia e i Paesi Bassi e chissà forse anche l'Italia. Ma quello che in questo momento sembra a rischio non sono tanto le prospettive elettorali di questo o di quel partito, ma la salute stessa della democrazia. Tutto il mondo in fondo c'è una grande disaffezione per la politica, si mettono in discussione gli schemi di convivenza, le regole, insomma quella che abbiamo chiamato in questi secoli democrazia. E su questo tema, sulla crisi, la malattia della democrazia, interviene uno degli maggiori studiosi italiani, un grande esperto di diritto, in particolare di diritto amministrativo, che è stato ministro e giudice della Corte Costituzionale, cioè Sabino Cassese, che ha scritto il libro La democrazia e i suoi limiti, pubblicato da Rizzoli, 120 pagine, 17 euro. Questo è uno strumento molto agile ma molto utile, anche perché è comprensibile veramente a tutti, sul malfunzionamento della democrazia italiana, la cui crisi è esaminata all'interno delle tensioni che dappertutto stanno scuotendo il modello democratico, stritolato tra pratica sostanzialmente elitaria del potere e desiderio di affermazione del demos, del popolo. E questa pressione mette in difficoltà il modello tradizionale consolidato della democrazia rappresentativa. Cassese nota che non è la prima volta che si parla di crisi della democrazia, ma coglie le novità di questa crisi, di quella che stiamo vivendo in questi anni, di cui appunto siamo attori e in parte protagonisti. E smonta anche Cassese molti luoghi comuni, per esempio quello sulla corruzione, che a lui non risulta più elevati in Italia che non in altri paesi, se si esaminano non le impressioni ma i fatti, cioè le sentenze di condanna per corruzione, che appunto non sono in Italia di numero più elevato che in altri paesi. Si esamina poi dei punti che infiammano il dibattito da anni, per esempio quello sul ruolo che egli considera debordante della magistratura o di certi magistrati, e presenta le sfide poste da situazioni inedite come lo sviluppo della civiltà digitale. E su questi temi sentiamo adesso l'autore. Buonasera a Sabino Cassese. Eccomi, buonasera. Sabino Cassese, nelle prime righe del suo libro lei sottolinea come si parli oggi sempre più spesso di crisi della democrazia, parla di crisi, disillusione, tradimento, incompiutezza della democrazia, però invita anche a non drammatizzare. In fondo aggiunge non è la prima volta che la democrazia è stata oggetto di critica. Ecco, qual è la peculiarità della crisi che attraversa oggi la democrazia? E ce n'è più di una, diciamo, c'è una crisi di partecipazione, quindi minore interesse per partecipare alla cosa pubblica, vedi la crisi dei partiti, e c'è poi una crisi che riguarda il vertice, non più la base, che è una crisi degli stessi governi, problemi italiani, la durata dei governi, problemi di altri paesi, l'eccessiva durata di governi, quindi la crisi della democrazia, la crisi attuale, riguarda sia la base della piramide, per così dire, sia il vertice della piramide. Lei ha parlato di crisi dei partiti e nel suo libro coglie questo aspetto come uno dei temi principali del libro, che riguarda il ruolo del popolo nella democrazia. Ecco, la crisi dei partiti è più causa o conseguenza di questa crisi? Cominciamo dai dati. Ecco, oggi il partito che vanta il maggior numero di iscritti in Italia ha 400.000 iscritti scarsi. Gli iscritti ai tre maggiori partiti nel secondo dopoguerra erano 4 milioni. Quindi c'è un forte divario tra le strutture dei partiti oggi e ieri. Questo, secondo me, riflette due aspetti. Da un lato la difficoltà dei partiti di essere tramite tra quello che una volta si chiamava il paese reale, il paese legale, e dall'altro riflette anche una accentuata, aumentata domanda di partecipazione. Quindi queste due cose, l'incapacità interna, per così dire, e una incapacità esterna dei partiti, sono causa ed effetto di questo fenomeno. Uno degli aspetti della crisi della democrazia è il fatto, secondo lei, che abbia prevalso un modello, quello che lei chiama il modello della democrazia come condivisione. Quali sono i rischi di questo modello? Perché lei ne è preoccupato? Ma io sono preoccupato perché i rischi di questo modello sono quelli che stiamo vivendo in Italia. Facciamo un esempio: Italia-Germania. Il modello della condivisione, detto anche modello di democrazia consociativa, è un modello che è stato seguito in Germania. In questo momento in Germania ci sono due partiti che si sono fatti la guerra e che poi si sono messi d'accordo e che governano il paese. Come lo governano? Sulla base di un Koalitionsvertrag, cioè di un accordo di coalizione che è lungo 183 pagine. Vediamo l'Italia. C'è stato un breve periodo di accordo, cosiddetto patto del Nazareno. Nessuno ha mai letto una riga del patto del Nazareno e probabilmente non esiste una riga scritta. E questo è l'indice di un problema, insomma. Gli accordi vanno scritti, bisogna entrare nei dettagli, non ci si può mettere d'accordo un po' frettolosamente senza stabilire politiche e politica. Politiche e politica debbono andare tutte e due nella stessa direzione. Questo incontro può avvenire solo nel Parlamento, lei a un certo punto parla di retorica parlamentarista. Guardi, questo incontro non deve avvenire solo nel Parlamento. Il Parlamento naturalmente è il luogo nel quale si deve concludere, ma è un incontro che deve nascere alla base. Insomma, quell'incontro che si è realizzato al vertice tra De Gasperi e Togliatti nel 46, 47, 48, che ha portato alla Costituzione. Mi scusi, naturalmente De Gasperi, Togliatti e anche Nenni, quell'incontro nasceva da qualcosa di condiviso, cioè c'era un humus condiviso che era poi il CLN, c'era la comune lotta di liberazione, cioè alcuni ideali che sono parte di tutte e due o tutte e tre le forze politiche. Uno degli aspetti più controcorrente del suo libro sono le pagine dedicate alla corruzione. Lei smonta i dati o i non dati e invece critica alcune politiche che sono state messe in atto in Italia a parole per combattere la corruzione, ma che in realtà paralizzano tutto il sistema. Ma guardi, io penso in effetti che questo sia un fatto che sta diventando veramente grave in Italia. Cioè, noi abbiamo messo in piedi un impero anticorruzione e l'abbiamo messo in piedi senza sapere quali sono i dati, non c'è un minimo sforzo. So bene che il tema della corruzione è di difficile misurazione, ma non c'è un minimo sforzo di andare oltre, come dire, quello che viene chiamata dai tecnici la corruzione percepita. A me è capitato in passato di ricevere questionari del Fondo Monetario Internazionale e so come vengono misurati questi dati. Semplicemente vengono mandati a degli osservatori scelti sulla base di alcuni criteri, osservatori cosiddetti privilegiati, vengono mandate delle domande, 10-15 pagine, e non si chiede a loro di fare una misurazione, ma semplicemente di dire quello che loro pensano di. Ma mi pare questo il modo di ragionare, insomma, questo è il modo di lavorare. Bisognerebbe avere dei dati più precisi, insomma. Perché l'Italia è un paese così corrotto? Ma abbiamo tutti veramente la sensazione che sia un paese così corrotto? E comunque, se siamo così malati, non vale la pena di prendere un termometro, di mettercelo sotto l'ascella e di misurare la temperatura? Un altro apparato molto potente su cui lei si sofferma è quello delle procure, che anch'esso è un apparato che rischia di generare delle deformazioni molto potenti in ambito democratico. Beh, questo sì, perché come lei ha visto le procure in Italia non sono pienamente indipendenti, perché sono troppi i componenti delle procure che finiscono in politica. Ora, l'indipendenza è un'indipendenza non solo nell'esercizio del proprio potere, ma anche successivamente. Tutti questi casi di sindaci, presidenti di regioni, ministri. Quanti ne sono stati di persone che si sono fatti una fama come procuratori e poi sono diventati uomini politici? Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, questo abuso delle intercettazioni, questo è veramente un grave vulnus per la democrazia. E ci sono tanti mezzi di prova, perché le intercettazioni sono l'unico mezzo di prova in Italia, o comunque quello prevalente. E il terzo aspetto, ma perché le intercettazioni finiscono sui giornali e non dovrebbero essere dei dati riservati? Se sono dei mezzi di prova, andranno sollevati nel momento giusto. E poi comunque, perché tutta la intercettazione e non i passaggi che in qualche modo sono rilevanti? Insomma, c'è un abuso che costituisce un grave danno per la democrazia, perché la democrazia non è più equilibrata. Insomma, pensa adesso al caso Romano, insomma, ecco, dico, io sono convinto che Roma sta affondando, dobbiamo salvare una città che è la capitale del nostro paese, però le pare giusto di mettere in crisi delle persone che sono state elette dal popolo? Il popolo può sbagliare, certo, ma non è attraverso delle continue accuse, controaccuse di tipo penale che vanno risolti questi problemi. Questi problemi vanno risolti sul piano della democrazia, cioè dicendo: guardate che le strade di Roma sono tutte un buco, guardate che a Roma oramai affondiamo nella sporcizia, insomma, guardate che non c'è nessuno che si cura di alcuni problemi di interesse collettivo. Ecco, questo è il problema, non i problemi che affannano ormai la vita politica romana da parecchi mesi. Un problema che, come lei dice, non soltanto per Roma, è aggravato dal fatto che la pubblica amministrazione perde colpi anch'essa. Questo è un capitolo piuttosto penoso, insomma, la pubblica amministrazione è un corpo, se noi non lo nutriamo, se nel corpo non ci sono gli anticorpi, se non viene coltivato, se viene sottoposto alla regola del sospetto della corruzione, se non vengono immesse forze nuove, se non si curano le élite amministrative, come vogliamo che il corpo dell'amministrazione funzioni? Grazie a Sabino Cassese, autore della Democrazia e i suoi limiti. Buona serata. Arrivederci. Fra le molte cause che in passato hanno messo in crisi la democrazia, Sergio Romano ne esamina una di carattere economico e dalle conseguenze devastanti, spesso nel libro Guerre, debiti e democrazie, breve storia da Bismarck a oggi, pubblicato dalla Terza, 118 pagine, 14 euro. Partendo dall'esperienza successiva alla sconfitta della Francia nel 1870, quando Parigi non fu condannata a pagare riparazioni di guerra, Romano esamina la ben diversa esperienza del 1919, quando la Germania sconfitta fu invece costretta a pagare un pesantissimo contributo finanziario che venne deprecato pubblicamente da Keynes in un saggio che gli diede la fama, Le conseguenze economiche della guerra, di cui troviamo qui riprodotto un capitolo. Interessante anche trovare in appendice il Trattato di Versailles, che appunto sancì quei castighi finanziari per la Germania. Dopo quell'esperienza ce ne sono state diverse altre, anche di segno diverso. Per esempio, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ricorda Romano, col piano Marshall la strada imboccata fu quella contraria, di favorire la ripresa dei paesi sconfitti. Oggi l'Europa, e in particolare Romano si sofferma sul caso greco, presenta una nuova variante di questo tema, cioè del problema di come il debito pubblico condizioni la posizione internazionale di un paese, e in particolare condizioni la sua posizione rispetto agli alleati che fanno parte, come nel caso della Grecia, rispetto all'Unione Europea, di un gruppo di condomini che non trovano appunto un accordo su come trattare un inquilino un po' troppo indebitato. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parlo adesso di un romanzo che ha fatto molto discutere e ha anche ottenuto importanti riconoscimenti internazionali. L'autrice è una scrittrice sudcoreana, Han Kang, che ha scritto il libro La Vegetariana, pubblicato in Italia da Adelphi, 176 pagine, 18 euro, e tradotto da Milena Zernira Ciccinarra. Questa è la storia malinconica di Yong Ye, una ragazza figlia di un padre autoritario e, quando gli serve, manesco, sposata con un marito abbastanza insignificante che all'improvviso, da un giorno all'altro, decide di cambiare vita e di non mangiare più. All'inizio rifiuta di mangiare la carne, poi non vuole mangiare più nulla. È stato un sogno, spiega, quello che l'ha determinata una scelta così drastica, una scelta che nella sua severità appunto sconvolge la sua vita, non meno che gli equilibri familiari. E il libro è diviso in 3 parti. Nella prima vediamo la lenta discesa verso l'abisso della protagonista, poi un capitolo dedicato al rapporto col cognato, artista un po' per gioco, sfaccendato, ma morbosamente attratto da una curiosa particolarità fisica della digiunante. E infine il rapporto con la sorella, che alla fine sarà l'unica a restarle vicino. Il libro non è né un peana né una condanna del veganesimo, ma racconta bene l'allucinazione di una ragazza che della sua scelta non si dà in realtà alcuna spiegazione razionale, se non appunto quella di un sogno e alla fine del desiderio di trasformarsi sostanzialmente in un albero, di squagliarsi nella natura, come spiega in questo dialogo finale con la sorella. Io non lo sapevo, pensavo che gli alberi stessero a testa in su. L'ho scoperto solo adesso. In realtà stanno con entrambe le braccia nella terra, tutti quanti. Guarda, guarda là. Non sei sorpresa? Yong Ye era balzata in piedi e aveva indicato la finestra. Tutti quanti. Stanno tutti a testa in giù. Era scoppiata in una risata incontenibile e a In Ye erano tornati in mente alcuni momenti della loro infanzia in cui la faccia della sorella aveva esattamente la stessa espressione. Momenti in cui i suoi occhi, dalla palpebra singola, si restringevano e diventavano completamente neri, e dalla sua bocca prorompeva quella risata innocente. Sai come l'ho scoperto? Beh, ho fatto un sogno e stavo sulla testa. Sul mio corpo crescevano le foglie e dalle mani mi spuntavano le radici, e così affondavo nella terra sempre di più. Volevo che tra le gambe mi sbocciassero dei fiori, così le allargavo, le divaricavo completamente. Per rinfrancarci dopo i digiuni di Han Kang, vi segnalo il libro di un noto studioso della cultura alimentare in Italia, Massimo Montanari, storico medievale, che ha scritto Il sugo della storia, pubblicato dalla Terza, 192 pagine, 15 euro. Il sugo della storia è un'espressione manzoniana, visto come meccanismo generatore, spiega l'autore, come motore che muove l'azione dal di dentro. Per cogliere il sugo di una storia, qui l'autore cita Antonio Spadaro, è necessario bollirla dentro di sé. Il sugo richiede tempo, va meditato e preparato con pazienza. Il lettore, in questo senso, è una pentola. E quindi noi lettori pentole possiamo ripercorrere questo viaggio di Montanari nelle ricette tradizionali della nostra cucina e nei riferimenti anche a libri e anche a letteratura che egli ci offre. Infatti Montanari non si stanca mai di ricordarci in questo libro che il condimento, il sugo, è l'anima di una vivanda. Esamina perciò molti piatti famosi, non soltanto italiani, ne ricorda le origini, le antiche documentazioni letterarie o documentali, e illustra tutta la nuova componente della filiera alimentare, per esempio gli orti urbani o i musei del gusto. Sentite per esempio dal libro di Montanari questa vetta, a quale vetta di erudizione può condurre il dibattito su come condire l'insalata. Come si condisce l'insalata? Ho provato per gioco a registrare le abitudini di alcuni amici. Sugli ingredienti sono tutti d'accordo. La triade olio-aceto-sale non è in discussione, anche se qualcuno elimina l'aceto e qualcun altro aggiunge il pepe. Ma sull'ordine con cui farli scendere in campo, le varianti si moltiplicano. Olio-aceto-sale, olio-sale-aceto, sale-aceto-olio, sale-olio-aceto, aceto-sale-olio, aceto-olio-sale. Almeno 6 possibilità si prospettano, tutte le combinazioni matematicamente possibili, senza contare quelle che si aggiungerebbero modificando il numero degli ingredienti. La discussione sul modo di condire l'insalata è presente in tutta la letteratura storica sull'argomento, in particolare nei trattati sull'insalata scritti fra XVI e XVII secolo da Costanzo Felici, Salvatore Massonio e Giacomo Castelvetro. Una curiosa tradizione insegna che per condire bene l'insalata ci vorrebbero almeno 4 persone: un saggio, un avaro, un prodigo e un matto. Il primo, dotato di sale in zucca, doserà al meglio la quantità del sale. Il secondo terrà sotto controllo la piccola quantità di aceto da versare. Il terzo spargerà olio a piene mani. Infine, il matto mescolerà tutto con energia, salando l'insalata in lungo e in largo, amalgamando il tutto con furia gioiosa. Restiamo nell'ambito della filiera agricolo-alimentare per raggiungere una delle zone più prestigiose della produzione vinicola, la Franciacorta, dove si svolge Vendemmia in Franciacorta di Adriano Baffelli, che è un giornalista alla prima prova narrativa, il libro pubblicato dalla Scuola, 222 pagine, 17 euro. Questo è definito dall'autore un romanzo sociale, questo è il sottotitolo del libro, che tratta di una vicenda purtroppo frequente, quella di un manager che perde il posto e non riesce a trovare una nuova occupazione. La svolta viene con la scoperta appunto della Franciacorta, dove Luigi, il protagonista, scoprirà una nuova dimensione anche professionale e scopre anche, partecipando alla vendemmia, l'impegno per rendere quel territorio rinomato e famosissimo in tutto il mondo ormai per la qualità dei prodotti. La sua vicenda diventa quindi un reportage sulle difficoltà economiche che l'Italia ha attraversato negli ultimi mesi e che in parte in molte zone rimangono ancora molto forti, e sulle difficoltà a trovare un lavoro, a recuperare una dimensione professionale. Ma quello di Baffelli non è un libro disperato e il finale ci darà soddisfazione. Il cibo, dunque, come dicevamo prima, è cultura, ma soprattutto per molti è piacere. E ci invita a non dimenticare questa dimensione del cibo una studiosa dell'Università di Messina, Rosalia Cavalieri, che ha scritto La passione del gusto, quando il cibo diventa piacere, pubblicato al Mulino, 144 pagine, 15 euro. Il cibo quindi è piacere non solo per chi lo consuma, ma anche per chi lo produce e lo cucina. Può diventare anche un divertimento in questi casi. Ma per secoli il cibo, o meglio il senso del gusto, è stato negletto e marginalizzato. Scrive infatti l'autrice che la riflessione filosofica da 2500 anni ha collocato il fulcro della nostra razionalità nella vista e nell'udito, i sensi cognitivi, a discapito del tatto e specialmente del gusto e dell'olfatto, relegati al rango di sensi minori. E quindi il libro vuole rendere giustizia a questa prevenzione e ristabilire l'importanza del gusto, che oggi peraltro ha riacquistato una centralità che ci rende felici, scrive infatti l'autrice, che si apre a nuovi piaceri. Scrive infatti la Cavalieri che il processo di denaturalizzazione del cibo ha oggi raggiunto le vette più alte attraverso l'elaborazione di nuovi stili, di nuovi linguaggi, di nuove forme di espressione destinate a originare nuove forme di piacere enormemente distanti da quello del gusto industrializzato. Insomma, siamo nella fase dell'avanguardia culinaria, dove ogni preparazione è frutto di una costante esplorazione. E a questo punto il confettino. Uno spunto alimentare offre il romanzo di Polly Horvath, che è un'acclamata scrittrice statunitense-canadese, La stagione delle conserve, pubblicato da Battello Vapore, 220 pagine, 15 euro, tradotto da Matilde Bonetti. Due zie, dedite appunto alla preparazione delle conserve di mirtilli, accolgono una nipote non troppo calorosa e desiderosa di passare con loro le vacanze, ma che scoprirà di queste due lontane parenti dei lati nascosti che riusciranno a sorprenderla. Ultimi arrivi. Cominciamo con un cane coraggioso e sfortunato, Max, un eroe per amico. Il libro è scritto da Jennifer Lee Schultz, è pubblicato da Spelling & Kuffer, tradotto da Rosa Principe, 236 pagine, 18,90 euro. Questa è una storia che ha avuto un grande successo negli Stati Uniti, è diventata anche un film. e racconta la vicenda di un cane che segue le truppe americane e che torna a New York dalla sorella del militare al quale era affidato caduto in Afghanistan. Poi vi segnalo il libro di un autore molto popolare, il Ildefonso Falcones, che ha scritto Gli eredi della terra, Longanesi, 906 pagine, 22 euro, tradotto da Marco Merighi, Roberta Bovaria, Daniela Ruggiu e Marcella Uberti Bona. Qui torniamo nella Barcellona quattrocentesca della Cattedrale del Mare, in un appassionante romanzo nel quale spicca la personalità del giovanissimo protagonista Hugo Yor. E infine un altro romanzo storico ci porta nelle piantagioni schiavistiche della Giamaica, dove un personaggio straordinario compare, una bambina di colore ma dagli occhi verdissimi, che da questa particolarità troverà la forza per cercare di costruirsi un futuro diverso. Il libro si intitola Le donne nella notte, l'autore è uno scrittore giamaicano che vive fra gli Stati Uniti dove insegna, e appunto la Giamaica, Marton James. È pubblicato da Frassinelli, 444 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Paola Daccarda. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Paolo Corleone, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.